il falco e il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Hai mai seguito il volo di un falco o di un gabbiano? Traiettorie ardite nel vento, dentro al cielo lontano. Io sono così e ho voglia di volare, mentre dico che ti avrò e ti avrò. Come sapete, noi raccontiamo storie di persone che nella loro vita sono state capaci di un colpo d'ala, quel colpo d'ala che qualche volta ha dato significato a tutta la loro esistenza. Colpi d'ala continuativi, sporadici, positivi, negativi. Bene, il protagonista di oggi, il suo colpo d'ala l'ha dato un attimo prima di morire, prima che un assassino, forse per soldi o per terrorismo, gli sparasse, uccidendolo. Oggi raccontiamo la storia di Fabrizio Quattrocchi, un italiano morto rivendicando proprio il suo essere italiano. La tragica vicenda di Fabrizio Quattrocchi, ucciso a soli 36 anni in Iraq, si svolge in uno scenario che bisogna ricordare prima di cominciare a raccontare la sua vita. Siamo nel 2004, la fase cruciale della seconda guerra del Golfo è finita da pochi mesi ed era cominciata così. My fellow citizens. Miei cari cittadini, gli eventi in Iraq hanno ormai raggiunto gli ultimi giorni decisivi. Per più di un decennio, gli Stati Uniti e altre nazioni hanno perseguito sforzi pazienti e onorevoli nel tentativo di disarmare il regime iracheno con mezzi pacifici. Un regime che ha promesso di rivelare e distruggere le proprie armi di distruzione di massa, come condizione necessaria per porre termine alla guerra del Golfo Persico nel 1991. La sicurezza del mondo richiede di disarmare Saddam Hussein ora. Requires disarming Saddam Hussein now. Questo era George Bush Junior, che come da tradizione di famiglia, il secondo dei Bush presidenti, lancia le forze americane alleate contro il regime di Saddam Hussein, reo di non avere smantellato il suo presunto arsenale di armi di distruzione di massa. In realtà questa è stata una delle più grandi bufale degli ultimi 100 anni, perché le armi non esistevano, furono una bugia sulla quale l'amministrazione Bush si lanciò alla conquista del petrolio iracheno, con una campagna di divulgazione, di manipolazione dei media che ancora oggi fa discutere. La parte finale della vita di Fabrizio Quattrocchi si svolge in quella che gli americani definiscono la Baghdad liberata, in realtà occupata dalle forze armate americane. È un contesto di grande instabilità, con esplosioni di tensioni tra gruppi, etnie, bande armate che fino a quel momento il regime di Saddam aveva tenuto compresse. Poi ci sono attentati, sparatorie, bombe, una realtà terribile. Noi della Nazionale Cantante siamo stati a Baghdad in quei giorni, abbiamo raccolto testimonianze anche molto dure da parte della popolazione, insomma, nei confronti di quelli che in qualche modo loro vedevano come esercito occupante. Intanto ci sono civili occidentali che iniziano a lavorare, perché bisogna ricostruire e guadagnarci sopra, e quindi questi occidentali si spostano con guardie di sicurezza private. E questa è la ragione per cui in quella primavera del 2004 Fabrizio Quattrocchi si trova a Baghdad. Di quei giorni, del rapimento, dell'uccisione di Quattrocchi, io vi parlerò più avanti, perché prima voglio provare a raccontare la storia personale di Fabrizio, anche e soprattutto grazie alle testimonianze della sorella Graziella, che ci aiuterà in questo percorso e di cui sentiremo tra poco alcune dichiarazioni. Fabrizio Quattrocchi è siciliano di nascita, viene al mondo a Catania, cresce a Genova, dove nel quartiere di via San Martino, vicino all'ospedale, i genitori hanno una panetteria. Ha un fratello, Davide, e appunto la sorella Graziella, e a lei abbiamo chiesto che bambino era Fabrizio. È sempre stato un bambino così aperto, molto aperto e a confrontarsi con gli altri, sempre. Difendeva gli amici in difficoltà, era sempre pronto alla solidarietà. Difendere gli amici in difficoltà sarà poi il suo destino, anche se destino professionale. Comunque intanto la famiglia prosegue la sua vita fino a quando il padre muore, e allora i figli non se la sentono di proseguire con la panetteria. Poi lui è un appassionato di arti marziali, in particolare un esperto di taekwondo, quindi prova a fare diventare lavoro questa passione. Frequenta dei corsi di addestramento perché vuole diventare guardia del corpo, addetto alla sicurezza. Si inizia come tutti con i locali notturni. È aiutato da un fisico prestante, massiccio, e anche dalla conoscenza delle arti marziali. Queste saranno le caratteristiche che lo porteranno a Baghdad in quell'aprile del 2004. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di un uomo che ebbe il coraggio di dire ai suoi aguzzini, un attimo prima di venire assassinato, vi mostro come muore un italiano. Una frase per la quale nel 2006 il presidente della Repubblica Ciampi gli assegnò una medaglia al valor civile, una medaglia alla memoria. Stiamo parlando di Fabrizio Quattrocchi, un uomo sul quale gli italiani sono riusciti a litigare e a fare polemica perché aveva ricevuto una medaglia. Io credo che il ricordo di un italiano vittima della violenza vada comunque tutelato, eppure questa non è una memoria condivisa per alcuni. Quattrocchi non era un eroe, neanche un simbolo da premiare. Siamo all'inizio del 2000 quando Fabrizio reagisce alla morte del padre, quindi alla vendita dell'esercizio di famiglia, con la speranza di fare della sua passione per le arti marziali il suo futuro professionale. Frequenta corsi di guardia del corpo e dà vita a una certa preparazione militare. In realtà lui fa un normalissimo servizio militare in fanteria a Como, poi prosegue negli Alpini, poi è riservista, partecipa all'operazione Domino, che è il controllo straordinario di alcuni obiettivi sensibili come gli aeroporti, deciso dopo l'attacco alle Torri Gemelle di New York. Eppure Quattrocchi, che ha sicuramente il physique du rôle per fare l'addetto alla sicurezza, ha un carattere buono, non è una persona bellicosa, così lo ricordava in un'intervista dell'epoca la sua fidanzata Alice. Si è preparato con scrupolo e ha cominciato a collaborare con agenzie specializzate a Genova come addetto alla sicurezza nei locali notturni o come guardia del corpo, ma sempre con grande rettitudine e con la bontà che lo contraddistingueva. Non ha mai picchiato nessuno, anzi, interveniva sempre per dividere le persone. A lui, così grande e grosso, non è mai piaciuto fare a botte. Insomma, un uomo, un ragazzo dal carattere equilibrato, a detta della fidanzata, ma anche degli amici, dei colleghi. Sentiamo la sorella Graziella. Ma non solo la sua fidanzata, ma anche tantissimi colleghi mi hanno raccontato di fatti successi, ma anche addirittura i proprietari dei locali. Lui cercava sempre di ragionare con le persone, cercando di far capire cos'era a modo suo quello che era sbagliato, che potesse danneggiare altri. Ecco, cercava con la ragione di discuterne e far capire. E poi era soprattutto allegro, molto allegro, portava l'allegria ovunque, era sempre la sua risata, io me la ricorderò per sempre nel cuore. Un periodo a lavorare in una società di sicurezza e poi nell'ottobre del 2003 un reclutatore italiano di una società del Nevada sceglie tra tanti curriculum quello di Fabrizio Quattrocchi. Stanno cercando uomini in grado in Iraq di istruire il personale locale per proteggere manager, personalità di rilievo, strutture logistiche fondamentali come gli oleodotti, addetti che ci lavorano. La seconda guerra del Golfo è cominciata qualche mese prima e le truppe americane hanno rapidamente preso Baghdad. Vi ricorderete le immagini televisive, le statue di Saddam abbattute, le devastazioni nei lussuosissimi palazzi del potere. Saddam è in fuga, poi verrà catturato. Gli americani stanno cercando casa per casa tutti i pezzi grossi del regime per assicurare il cambio di governo. E nelle strade delle città non ci sono solo i soldati, intanto questa operazione americana porta molto rancore all'interno degli iracheni. Io ho sentito dire, a noi non piace che uomini in, a torso nudo e con i calzoncini corti perquisiscano le nostre donne, e insomma in qualche modo un minimo di riguardo forse ci voleva. Ma poi nelle strade sono cominciate le vendette tra le varie minoranze, le bande armate di criminali fanno quello che vogliono. Insomma, non è proprio un contesto pacificato. Lì Fabrizio Quattrocchi sceglie di andare. E in quel novembre del 2003 il lavoro è così rischioso che viene ben pagato. Si parla di compensi tra i 6.000 e i 9.000 dollari al mese. Fabrizio sa bene che questo è un lavoro pericoloso, annuncia la partenza alla fidanzata, però alla madre e alla sorella non dice niente se non una bugia per non farle preoccupare. Sentiamo i fatti, Graziella. Né io né la mamma lo sapevamo, lo sapeva solo la sua fidanzata, perché sicuramente non gliel'avremmo mai, cioè sarebbe stato lo stesso, non lo so, però lui, per non preoccuparci, essendo noi siamo una famiglia molto, molto unita, molto legata uno all'altro, quindi sarebbe stata, mia mamma sarebbe stata molto preoccupata, come anch'io, e aveva detto che era in Kosovo in missione di pace. E invece Fabrizio a Baghdad, attirato da un lavoro ben retribuito, entra a far parte di quel gruppo di guardie di sicurezza private che trova ragione di impiego in quei contesti di guerra. Molti rischi e un po' di soldi, come racconterà in quel periodo un servizio della televisione pubblica svizzera, in cui ci sono rare immagini proprio di Quattrocchi. E qui bisogna anche dire che in Italia c'è stato, come sempre, un grande equivoco. Quattrocchi non era un mercenario, non era uno pagato da qualcuno per sparare a qualcun altro. Era una persona, una guardia del corpo in una zona a rischio. C'è una bella differenza. Continuiamo tra poco. Il falco e il gabbiano. La storia di oggi è quella di Fabrizio Quattrocchi, rapito, ucciso a 36 anni a Baghdad in Iraq, e immediatamente dopo la caduta del regime di Saddam Hussein. Una vicenda che nel 2004 ha toccato le coscienze, la sensibilità di molte persone, anche per un video che mostra gli ultimi istanti di vita di Fabrizio, che era andato in Iraq non come mercenario ma come guardia di sicurezza privata, e pronto a morire, consapevole del suo destino, pronuncia una frase che rimane nella storia, senza enfasi e senza urla: vi faccio vedere come muore un italiano. Noi stiamo raccontando proprio la storia di Fabrizio. Arriva nell'Iraq sul finire del 2003, l'Iraq appena occupato dalle truppe americane. Sull'attività che svolge si è detto molto, e spesso per ragioni diverse dalla necessità di capire, ma semplicemente per la voglia di strumentalizzare e anche di infangare. Gli si è dato del mercenario. L'unica testimonianza sul vero lavoro di Quattrocchi è presente in un reportage in onda nel maggio del 2004 sulla televisione, sulla radio televisione della Svizzera italiana, una trasmissione che l'Italia non manda mai in onda. Ci sono le ultime immagini di Fabrizio prima del rapimento. Il titolare della società per la quale lavorava Quattrocchi chiariva che il compito dei suoi uomini era esclusivamente quello di proteggere strutture e personale per conto di clienti americani. Il 13 aprile 2004, sulla strada che collega Baghdad a Amman, Fabrizio Quattrocchi viene rapito. Un gruppo armato che si autodefinisce Falangi Verdi di Maometto lo blocca assieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio, e i quattro vengono disarmati, portati via. Dobbiamo ricordare che l'Iraq era occupato militarmente dagli Stati Uniti, non era molto pacificato, in realtà non l'è neanche adesso. L'Italia faceva parte della cosiddetta coalizione dei volenterosi, guidata da americani e britannici. Aveva in Iraq più di 3.000 militari impegnati in un'operazione di peacekeeping, di mantenimento della pace, e si chiamava Antica Babilonia l'operazione. Bene, i rapitori lanciano subito un ultimatum all'Italia, chiedono al governo il ritiro sulle truppe dall'Iraq. Ma la risposta ufficiale del governo è di chiusura, nessuna trattativa. Il governo è il governo Berlusconi e il ministro degli esteri in quei giorni è Franco Frattini. Our aim is to maintain these contacts Il nostro obiettivo, dice Frattini, l'avete sentito, è mantenere i contatti ma senza alcun negoziato con gruppi di terroristi che rapiscono cittadini italiani. E allora i rapitori non perdono tempo, fanno passare 2 giorni, forse 3, poi scelgono tra gli ostaggi, lo fanno a caso, senza una logica, come ricorda Umberto Cupertino, uno dei rapiti. Si sono guardati intorno, venuto, hanno scelto Fabrizio, era a caso, lui era giù da qualche mese prima di noi. Aveva un badge definitivo che lo giustificava per quello che faceva. Potrebbe essere questo uno dei casi. Come potrebbe essere magari che è capitato a lui. Poteva capitare a me, poteva capitare a chiunque di noi. Insomma, i criminali incappucciati scelgono 4 occhi, hanno deciso, ai compagni di prigionia dicono che lo stanno per liberare, però nessuno sembra crederci, e primo tra tutti proprio Fabrizio. Sentiamo infatti Maurizio Agliana, che è un altro dei rapiti. Prima che lo portassero via, diciamo, non disse niente, si alzò dalla stanza e ci salutò con tranquillità e serenità e poi uscì dalla stanza. Insomma, Fabrizio Quattrocchi sa che sta andando a morire, non ha bevuto la scusa della liberazione, ai suoi rapitori chiede: morirò, vero? E la risposta è affermativa, lo portano in un campo alla periferia di Baghdad, lo fanno inginocchiare in una specie di buca, forse il cratere di una bomba. Lui è inginocchiato, ha le mani legate. Nel video dell'esecuzione diffuso pochi giorni dopo dalla TV Al Jazeera si sentono alcune voci, quelle dei rapitori, che parlano in arabo, però si coglie distintamente anche la voce calma di Fabrizio, che chiede: posso toglierla? Si riferisce alla benda che gli sta coprendo gli occhi. Qualcuno gli risponde di no, allora lui fa il gesto di toglierla e aggiunge: vi faccio vedere come muore un italiano. Posso levare? Mi fanno vedere come muore un italiano. Pochi secondi dopo gli sparano. 3 colpi, 2 vanno a segno, Fabrizio cade a testa in giù. Lo rigirano, scoprono il volto dalla benda e mostrano il suo volto alla telecamera. Poi buttano il corpo in una fossa già preparata. 2 voci recitano in arabo: è nemico di Dio, è nemico di Allah. A pochi giorni dall'omicidio il video arriva alla redazione di Al Jazeera con questo messaggio rivolto all'Italia. Se il vostro primo ministro dice che il ritiro delle forze italiane dall'Iraq è fuori discussione, considerato che questo ritiro è legato alla vita di 4 dei vostri osservatori, ciò significa che egli non è interessato alla salute degli ostaggi, ma a compiacere i suoi padroni della Casa Bianca. Ed ecco, il primo ostaggio è stato giustiziato e gli altri avranno il loro turno, uno per uno. Quel video, anche se censurato dalla parte finale, quella degli spari, viene mostrato sulle televisioni di tutto il mondo, anche sulle nostre e anche su Rete 4. Allora il direttore di TG4 era naturalmente Emilio Fede, che ha fatto molte trasmissioni anche di approfondimento sulla guerra in Iraq, e noi Emilio Fede l'abbiamo in linea. Buongiorno direttore. Buongiorno. La guerra, ecco, sì, sto seguendo questo ricordo di questa tragedia. Non soltanto ho seguito l'Iraq, ma io sono stato il solo direttore che è andato in Iraq ad Afria a rendere onore ai nostri caduti vittime del terrorismo islamico. È vero. Sono andato lì, devo dire, ricordando coloro che sono caduti, i nostri eroi. Quando purtroppo in Italia c'erano anche le folle idiote, imbecilli e risicate, per fortuna, che gridavano 10, 100, 1000 Nasiriya. Parliamo di quell'estremismo della sinistra estrema quando cade nell'orrore. E com'erano, direttore, quei giorni, i giorni del rapimento dei nostri 4 connazionali, i giorni della morte di Quattrocchi? Erano giorni ovviamente di angoscia, ovviamente di attese. C'era naturalmente qualche intromissione anonima, ovviamente, perché quando si vuole essere vigliacchi e colpire alle spalle si è sempre anonimi. Io dico che bisogna sempre mostrare la faccia, qualunque sia il motivo per la quale la mostri. Nel caso dei nostri connazionali si è cercato di ipotizzare qualunque altra cosa per trasformare l'episodio in un fatto che doveva comunque accadere, che c'erano dei rischi che correvano, che quindi erano rischi che poi hanno pagato con la vita, come dire, che si poteva fare. Nel caso di Quattrocchi io ricordo che quell'immagine, quelle parole di questo ragazzo io l'ho replicata giorno e notte per molto tempo. Esatto. Non per retorica, non per demagogia, ma semplicemente per mostrare all'opinione pubblica nel mondo quale poteva e doveva essere il coraggio di questo ragazzo che veniva assassinato, non un mercenario, come hanno dato di far capire, no, certo, chissà le varie storie, eccetera, ma quando lui ha detto ora vi faccio vedere come muore un italiano. Con un tono pacato e che credo che sia impossibile in qualunque individuo. Sì, ho visto un giornalista americano quando gli hanno tagliato la gola che guardava in faccia, si fa per dire, che cosa poteva vedere in faccia alla morte. Bene, Quattrocchi è stato e resta e deve restare, fate bene a ricordarlo, deve restare un simbolo di eroismo. Grazie direttore per averci aiutato a raccontare questa storia di cui forse si è parlato troppo poco. Grazie a voi, grazie. Il rapimento si conclude quasi 2 mesi dopo con la liberazione degli altri 3 ostaggi. E lì si parlò di un blitz, venne diffuso un video dell'incursione dei militari americani, un video che in realtà mostra solo l'irruzione in una casa vuota. E secondo testimoni, tra cui uno dei rapitori, l'Italia pagò sottobanco un riscatto di alcuni milioni di dollari, è un fatto che ovviamente il governo ha sempre smentito. Nel 2006 l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferisce alla memoria di Fabrizio Quattrocchi la medaglia al valor civile e naturalmente il conferimento di questa medaglia provoca polemiche tra le persone che hanno perso l'occasione per stare zitti. Giuliana Sgrena, giornalista del Manifesto, salvata dal sacrificio di un militare italiano che è morto per fare scudo al corpo di lei, e lei dice che Quattrocchi non meritava la medaglia perché non era un eroe ma un mercenario. Allora, quindi, intanto non conosceva i fatti, perché vi ho già spiegato la differenza che c'è tra un mercenario è una guardia del corpo. E poi, insomma, mi sembra che in una posizione come quella di una donna che viene salvata da un militare, insomma, fare tanto i contestatori sembra veramente sfregiare una salma. Per contro, invece, ci sono state tanti comuni che hanno intitolato a Quattrocchi vie o piazze, perché la frase, il modo dignitoso di affrontare la morte, hanno colpito la sensibilità, insomma, di molte persone. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, come ci racconta Graziella, la sorella di Fabrizio. E siamo stati abbracciati da tutta la popolazione mondiale, non solo gli italiani, le persone sensibili che ci hanno sostenuto in tutti, ancora adesso, le dico, dopo tanti anni il ricordo di Fabrizio è ancora vivo. Io ricevo tantissimi messaggi sempre su Facebook, sulla pagina di Fabrizio, e col cuore, proprio questo sentimento di solidarietà, di amore. E io spero che questa sia una storia sulla quale il ricordo annienta qualsiasi tipo di divisione. La storia di un uomo morto a 36 anni che lascia come eredità un gesto del quale noi italiani, che spesso siamo considerati, insomma, un paese di furbacchioni, amanti della pizza della mamma, noi italiani invece ne usciamo da grandi uomini. La famosa, ahimè, frase: vi faccio vedere come muore un italiano. Noi abbiamo voluto ricordare Fabrizio Quattrocchi per quello che è stato: un italiano ucciso con brutalità, un italiano che ha affrontato la morte con dignità e spirito nazionale. È un colpo d'ala, ahimè, vissuto negli ultimi attimi della sua esistenza. Se volete mandarci dei commenti, segnalarci altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falcoilgabbiano@radio24.it, visitate la nostra pagina sempre su radio24.it, oppure venite a cercarmi, a cercarci nei miei e nei nostri social, insomma, se volete mi trovate. Ciao, a domani.